Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, l'indice quest'oggi prevede di parlare di motti e stemmi, del colore degli occhi, del colore dei colori e infine di videogiochi.